Se era abbastanza semplice andare dalla parte di Méséglise, tutt'altra cosa era andare dalla parte di Guermantes, perché la passeggiata era lunga e volevamo essere sicuri del tempo che avrebbe fatto. Quando si profilava una serie di belle giornate, quando Françoise, disperata che non cadesse una goccia d'acqua sui poveri raccolti, e non vedendo che rare nubi bianche galleggiare sulla superficie calma e azzurra del cielo, esclamava gemendo: «Non si direbbero dei pescicani che giocano e mostrano i loro musi lassù? Ah, non ci pensano proprio a far piovere per i poveri contadini. Poi, quando il grano sarà spuntato, allora la pioggia comincerà a venir giù, patapom, patapum, senza sosta, senza più sapere dove va a cadere, come fosse il mare». Quando mio padre aveva ricevuto invariabilmente gli stessi favorevoli responsi dal giardiniere e dal barometro, allora a tavola si diceva: «Domani, se il tempo si mantiene, andremo dalla parte di Guermantes». Partivamo subito dopo pranzo dalla porticina del giardino e sbucavamo in Rue de Perchamps, stretta e ad angolo acuto, piena di erbacce tra le quali due o tre vespe passavano la giornata a erborizzare. Strada bizzarra come il suo nome, da cui mi sembravano derivare le sue curiose caratteristiche e la sua ruvida personalità, e che si cercherebbe invano nella Combray di oggi, dove sul suo antico tracciato sorge la scuola. Ma la mia fantasticheria, simile a certi architetti allievi di Viollet-le-Duc che, credendo di rinvenire sotto una tribuna del Rinascimento e un altare del Seicento le tracce di un coro romanico, restituiscono tutto l'edificio nello stato in cui doveva essere nel XII secolo, non conserva una sola pietra della nuova costruzione, sventra e restituisce Rue de Perchamps. La mia fantasticheria si giova del resto, per queste ricostruzioni, di dati più precisi di quanti non ne dispongano in genere i restauratori. Alcune immagini, conservate dalla mia memoria, le ultime forse che ancora sopravvivano e destinate ad essere ben presto distrutte, di com'era la Combray al tempo della mia infanzia. E poiché è stata la stessa Combray a tracciarle dentro di me prima di scomparire, sono non meno commoventi. Se è lecito paragonare un oscuro ritratto a quelle effigi gloriose di cui la nonna amava regalarmi le riproduzioni, di quelle antiche incisioni della cena o di quel quadro di Gentile Bellini in cui si vedono, in uno stato irrecuperabile oggi, il capolavoro di Leonardo da Vinci e il portale di San Marco. In Rue de l'Oiseau si passava davanti alla vecchia taverna dell'Oiseau Flesché, nel cui grande cortile entravano a volte, durante il Seicento, le carrozze delle duchesse di Montpensier, di Guermantes e di Montmorency, quando dovevano venire a Combray per qualche vertenza con i loro fattori o per qualche celebrazione. Si raggiungeva il viale alberato, dal quale si vedeva apparire il campanile di Saint-Hilaire. E io avrei voluto potermi sedere là e starmene tutta la giornata a leggere ascoltando le campane, perché il luogo era così bello e così tranquillo che quando suonavano le ore si sarebbe detto non che rompessero la quiete del giorno, ma la sbarazzassero di ciò che conteneva, e che il campanile, con la precisione indolente e meticolosa di chi non ha altro da fare, si limitasse a comprimere al momento giusto la pienezza del silenzio, per spremere e lasciar cadere le poche gocce d'oro che la calura vi aveva lentamente e naturalmente accumulato. La maggiore attrattiva dalla parte di Guermantes era di poter costeggiare per quasi tutto il tempo il corso della Vivonne. La si attraversava una prima volta, 10 minuti dopo essere usciti di casa, su una passerella detta Le Ponvier. Già all'indomani del nostro arrivo, il giorno di Pasqua, dopo la predica, se faceva bel tempo, correvo fin là per vedere, in quel disordine di un mattino di grande festa, in cui qualche preparativo sontuoso fa apparire più sordidi gli attrezzi domestici sparsi ancora in giro, il fiume già scorrere nel suo colore azzurro cielo, tra le sponde ancora nude e nere, accompagnato soltanto da uno stormo di cuculi arrivati troppo presto e da primule precoci, mentre qua e là una viola dal beccuccio blu piegava lo stelo sotto il peso della goccia di profumo che racchiudeva nel suo calice. Il Pont-Vieux sbucava su un sentiero di alciaia che in quel punto d'estate si tappezzava del fogliame azzurro di un nocciolo e sotto il quale aveva messo radice un pescatore dal cappello di paglia. A Combray, dove sapevo quale individualità di maniscalco o di garzone di drogheria si celasse sotto l'uniforme da scaccino o la cotta da cantore del coro, quel pescatore è la sola persona di cui non abbia mai scoperto l'identità. Doveva conoscere i miei genitori, perché quando passavamo sollevava il cappello. Allora avrei voluto chiedere il suo nome, ma mi facevano segno di tacere per non spaventare il pesce. Ci inoltravamo lungo l'alzaia che dominava l'acqua da una scarpata di parecchi piedi di altezza. Dall'altra parte la riva era bassa, si stendeva in vasti prati sino al villaggio e più lontano fino alla stazione. I prati erano disseminati dalle rovine, semisepolte nell'erba, del castello degli antichi conti di Combray, che nel Medioevo aveva su questo lato il corso della Vivonne come difesa contro gli attacchi dei signori di Guermantes e degli abati di Martainville. Non erano che pochi frammenti di torri, protuberanze appena visibili nella pianura, qualche merlatura da cui un tempo il balestriere scagliava le sue pietre e la sentinella sorvegliava Neuf-Pont, Clairefontaine, Martainville-Sec, Bayeux-Lexan, tutte terre vassalle di Guermantes, tra le quali si incuneava Combray, oggi rase al suolo, regno dei ragazzi della scuola dei frati che venivano là a studiare o a fare ricreazione. Un passato quasi nel grembo della terra, adagiato sul bordo dell'acqua come un viandante che prende il fresco, ma che mi faceva meditare profondamente e aggiungere nel nome di Combray alla cittadina di oggi una città ben diversa che catturava i miei pensieri col suo volto incomprensibile ed altri tempi, celato a metà, sotto i botton d'oro. Ce n'erano moltissimi in quel luogo. L'avevano scelto per i loro giochi sull'erba, da soli, a coppie, a gruppi, gialli come un giallo d'uovo. Tanto più brillante mi pareva in quanto, non potendo dirottare il piacere che la loro vista mi procurava verso qualche velleità di degustazione, io l'accumulavo tutto sulla loro superficie dorata, finché potessero acquistare abbastanza forza da produrre un'inutile bellezza. E questo sin dalla mia più tenera infanzia, quando dal sentiero dell'alzaia tendevo verso di loro le braccia senza poter compitare correttamente il loro bel nome di principi delle fiabe francesi, venuti forse molti secoli prima dall'Asia, ma installatisi per sempre nel villaggio, lieti di quel modesto orizzonte, amanti del sole e della riva dell'acqua, fedeli al piccolo panorama della stazione, e capaci tuttavia di conservare ancora, come certe nostre vecchie tele dipinte nella loro semplicità popolare, un poetico splendore d'Oriente. Mi divertivo a guardare le brocche che i ragazzi immergevano nella Vivonne per catturare i pesciolini e che, riempite dal fiume dal quale erano a loro volta racchiuse, al tempo stesso contenitori dai fianchi trasparenti come acqua solidificata e contenuti immersi in un più grande contenitore di cristallo liquido e corrente, evocavano l'immagine della freschezza in modo più delizioso e stuzzicante che se fossero venute a trovarsi su una tavola apparecchiata, non mostrandola che in fuga, in quella allitterazione perpetua tra l'acqua priva di consistenza che le mani non potevano afferrare e il vetro senza fluidità di cui il palato non avrebbe potuto gioire. Mi ripromettevo di tornarci più tardi con qualche lenza. Ottenevo che si prendesse un po' di pane dalle provviste della merenda e ne gettavo nella Vivonne delle pallottoline che sembravano sufficienti a provocare un fenomeno di sovrasaturazione. Intorno a loro, infatti, l'acqua si solidificava subito in grappoli ovoidali di girini affamati, certo rimasti là fino a quel momento in dissoluzione, invisibili, prossimi a cristallizzarsi. Ben presto il corso della Vivonne si ostruiva di piante acquatiche. Dapprima se ne incontravano alcune isolate, come quel nenufaro messo infelicemente di traverso alla corrente che gli dava così poca tregua, il quale, come un traghetto azionato meccanicamente, si accostava a una riva solo per tornare a quella da dove era venuto, rifacendo eternamente la doppia traversata. Spinto verso la riva, il suo peduncolo si distendeva, si allungava, filava, raggiungeva l'estremo limite della tensione fino alla sponda dove la corrente lo afferrava di nuovo. Il verde cordame del suo gambo si ripiegava su se stesso e riportava la povera pianta a quello che si poteva ben chiamare il suo punto di partenza, perché non ci restava un secondo senza ripartire per una ripetizione della stessa manovra. Lo ritrovavo di passeggiata in passeggiata, sempre nella stessa situazione, e faceva pensare a certi nevrastenici, fra i quali mio nonno annoverava anche la zia Leonie, che ci offrono immutato nel corso degli anni lo spettacolo di abitudini bizzarre che ogni volta si illudono di essere sul punto di scrollarsi di dosso, ma che mantengono sempre. Presi nell'ingranaggio dei loro disturbi e delle loro manie, gli sforzi in cui si dibattono invano per uscirne non fanno che assicurare il funzionamento e far scattare il congegno della loro dietetica stravagante, ineluttabile e funesta. Tale era il nenufaro, simile anche a uno di quegli infelici il cui singolare tormento, che si ripete all'infinito per l'eternità, eccitava la curiosità di Dante, che se ne sarebbe fatto raccontare più estesamente il motivo e i particolari dallo stesso dannato, se Virgilio, allontanandosi a grandi passi, non l'avesse costretto a raggiungerlo al più presto, come facevano i miei genitori con me. Ma più avanti il fiume rallenta il suo corso e attraversa una tenuta il cui accesso era stato aperto al pubblico dal proprietario, che si era sbizzarrito in lavori di orticoltura acquatica, facendo fiorire, nei piccoli stagni formati dalla vivonna, dei veri e propri giardini di ninfee. Siccome le rive in quel punto erano molto boscose, le grandi ombre degli alberi davano all'acqua un fondo che era di solito verde scuro, ma che a volte, quando rientravamo certe sere di nuovo serene, dopo un temporale pomeridiano, ho visto di un azzurro tenue e crudo tendente al violetto, d'aspetto cloisonné e di gusto giapponese. Qua e là, sulla superficie, un fiore di ninfea dal cuore scarlatto e bianco ai bordi rosseggiava come una fragola. Più in là, i fiori erano quasi tutti più pallidi, meno levigati, più granulosi, più increspati, e disposte dal caso in volute così graziose che sembrava di vedere galleggiare alla deriva, come per lo sfogliarsi malinconico di una festa galante, delle rose borraccine in ghirlande disciolte. Altrove, un angolo sembrava riservato alle specie comuni che mostravano il lindore bianco e rosa delle esperidi simili a porcellane lavate con cura domestica, mentre un po' più in là, strette l'una contro l'altra in un'autentica aiuola galleggiante, si sarebbero dette viole del pensiero venute dai giardini a posare come farfalle le loro ali bluastre e satinate sull'obliquità trasparente di quella aiuola d'acqua, di quella aiuola celeste anche, perché dava ai fiori il sottofondo di un colore più prezioso, più commovente di quello dei fiori stessi. E sia che nel pomeriggio facesse scintillare sotto le ninfee il caleidoscopio di una felicità attenta, silenziosa e mutevole, sia che si empisse verso sera, come qualche porto lontano, del rose del sogno del tramonto, cambiando di continuo colore intorno alle corolle dalle tinte più stabili, per restare sempre in accordo con quanto c'è di più profondo, di più fuggevole, di più misterioso, con quel che c'è di infinito nell'ora, pareva li avesse fatti fiorire in pieno cielo. Uscendo da quel parco, la Vivonne riprende il suo corso con più vigore. Quante volte ho visto o desiderato imitare, quando fossi stato libero di vivere a modo mio, un rematore che, abbandonato il remo, s'era sdraiato supino, la testa adagiata sul fondo della barca, e lasciandola galleggiare alla deriva, senza poter vedere altro che il cielo scorrere lentamente sopra di sé, mostrava in volto l'espressione di chi pregusta la felicità e la pace. Ci sedevamo fra gli iris in riva all'acqua. Nel cielo festivo vagava a lungo pigramente una nuvola oziosa. Di tanto in tanto, oppressa dalla noia, una carpa si drizzava fuori dell'acqua in un'aspirazione ansiosa. Era l'ora della merenda. Prima di riprendere il cammino, indugiavamo a lungo a mangiare frutta, pane e cioccolata sull'erba, dove giungevano fino a noi, orizzontali, attutiti, ma ancora densi e metallici, i rintocchi della campana di Saint-Hilaire, che non si erano mescolati con l'aria che avevano attraversato così a lungo, e striati dal palpitare successivo di tutte le loro linee sonore, vibravano sfiorando i fiori ai nostri piedi. A volte, lungo la riva attorniata dai boschi, ci imbattevamo in una casa di campagna isolata, sperduta, che non vedeva altro del mondo che il fiume che le bagnava i piedi. Una giovane donna, il cui volto pensoso e i cui veli eleganti non erano di quei luoghi, e che era certo venuta, secondo l'espressione popolare, a seppellirsi là, ad assaporare l'amaro piacere di constatare che il suo nome, soprattutto il nome dell'uomo di cui non aveva saputo conservare il cuore, vi erano sconosciuti, compariva nel riquadro della finestra che non le permetteva di spingere lo sguardo più in là della barca ormeggiata accanto alla porta. La donna alzava distrattamente gli occhi, sentendo dietro gli alberi della riva la voce dei passanti, che prima ancora di vederne il viso era certa che mai avevano né avrebbero conosciuto l'infedele. Niente del loro passato recava un segno di lui. Nulla nel loro avvenire avrebbe avuto occasione di riceverlo. Si intuiva che nella sua rinuncia aveva lasciato volontariamente i luoghi dove avrebbe almeno potuto intravedere colui che amava per questi che non l'avevano mai visto. E io la guardavo al ritorno da una passeggiata lungo un sentiero che lo sapeva lui non avrebbe mai percorso. Io la guardavo sfilarsi con mani rassegnate i lunghi guanti di una grazia inutile. Mai nelle nostre passeggiate dalla parte di Guermantes riuscimmo a risalire fino alle sorgenti della Vivonne, alle quali avevo pensato spesso e che per me avevano un'esistenza così astratta, così ideale, che quando mi avevano detto che si trovavano nel nostro stesso dipartimento, a qualche chilometro da Combray, ne ero stato sorpreso, non meno del giorno in cui avevo appreso che c'era un altro punto preciso della terra dove, nell'antichità, si apriva l'ingresso agli inferi. E nemmeno ci fu mai possibile spingerci fino alla meta che avrei tanto desiderato raggiungere, fino a Guermantes. Sapevo che là risiedevano i proprietari del castello, il duca e la duchessa di Guermantes. Sapevo che erano personaggi reali, tuttora viventi, ma ogni volta che pensavo a loro me li rappresentavo ora in un arazzo come la contessa di Guermantes nella incoronazione di Esther della nostra chiesa, ora di sfumature cangianti come Gilbert Le Mauvais che nella vetrata passava dal verde cavolo al blu prugna a seconda che stesse ancora attingendo l'acqua benedetta o fosse già arrivato alle nostre sedie. Ora del tutto impalpabili come l'immagine di Geneviève de Brabant, antenata dei Guermantes, che la lanterna magica faceva passeggiare sulle tende o salire sul soffitto della mia camera, sempre avvolti comunque dal mistero dei tempi merovingi e immersi come in un tramonto nella luce arancione che emanava da quella sillaba «ant». Ma se malgrado questo, loro erano per me, in quanto duca e duchessa, degli esseri reali, benché estranei, in compenso la loro ducale persona si estendeva smisuratamente, si smaterializzava, per poter contenere in sé, oltre quel Guermantes di cui erano duca e duchessa, tutta quella parte di Guermantes illuminata dal sole, il corso della Vivonne, le sue ninfee, i suoi grandi alberi e tanti bei pomeriggi. E sapevo che non portavano soltanto il titolo di duca e duchessa di Guermantes, ma che fin dal 300, dopo aver inutilmente tentato di sconfiggerne gli antichi signori, s'erano alleati con loro per via di matrimoni. Erano conti di Combray, i primi cittadini di Combray dunque, e tuttavia i soli che non vi abitassero. Conti di Combray, che possedevano Combray nel nome, nella persona, e avevano in loro senza dubbio quella strana e devota tristezza che era tipica di Combray. Proprietari della città, ma non di una casa particolare. Abitavano senza dubbio fuori, nella strada, fra cielo e terra, come quel Gilbert de Guermantes, di cui nelle vetrate dell'abside di Saint-Hilaire non vedevo che il rovescio di lacca nera, se alzavo lo sguardo quando andavo a comprare il sale da Camus. Poi accadde che dalla parte di Guermantes io passassi a volte davanti a certi piccoli umidi recinti su cui si arrampicavano grappoli di fiori scuri. Mi fermavo, credendo di acquisire una nozione preziosa, perché mi sembrava di avere sotto gli occhi un frammento di quella regione fluviale che desideravo tanto conoscere, da quando l'avevo trovata descritta in uno dei miei scrittori preferiti. E fu con quella regione, con il suo territorio immaginario attraversato da corsi d'acqua ribollenti, che si identificò Guermantes, cambiando aspetto nel mio pensiero, dopo che ebbi sentito il dottor Percepied parlarci dei fiori e delle belle acque sorgenti che c'erano nel parco del castello. Sognavo che Madame de Guermantes, presa per me da un capriccio improvviso, mi volesse là. Per tutto il giorno vi pescava le trote in mia compagnia, e la sera, tenendomi per mano, passando davanti ai piccoli giardini dei suoi vassalli, mi mostrava, lungo muretti bassi, i fiori che vi appoggiavano le loro conocchie viola e rosse, e mi insegnava i loro nomi. Voleva che le dicessi l'argomento delle poesie che avevo intenzione di scrivere. E quei sogni mi avvertivano che se volevo un giorno diventare uno scrittore, era ora che sapessi cosa contavo di scrivere. Ma appena me lo chiedevo, cercando di trovare un argomento che potesse contenere un significato filosofico infinito, la mia mente cessava di funzionare. Davanti alla mia attenzione vedevo solo il vuoto. Sentivo di non avere talento, o forse che una malattia cerebrale gli impediva di nascere. A volte contavo su mio padre per sistemare le cose. Era così potente, così ben voluto dalle persone importanti, che riusciva a farci trasgredire le leggi che Françoise m'aveva insegnato a considerare più ineluttabili di quelle della vita e della morte, a far rinviare di un anno i lavori di ripristino della nostra casa, unica in tutto il quartiere, a ottenere dal ministro per il figlio di Madame Sauzerat, che voleva andare alle terme, l'autorizzazione a sostenere gli esami di maturità con 2 mesi d'anticipo insieme al gruppo di candidati il cui nome cominciava per A, invece di aspettare il turno della S. Se mi fossi gravemente ammalato, se fossi stato catturato dai briganti, convinto che mio padre aveva troppa intelligenza con le potenze supreme, troppe irresistibili lettere di raccomandazione presso il buon Dio, perché la mia malattia o la mia cattività potessero essere altro che vani simulacri, senza pericolo per me, avrei atteso con calma l'ora inevitabile del ritorno alla normalità, l'ora della liberazione o della guarigione. Forse quell'assenza di genio, quel buco nero che mi si apriva nella mente quando cercavo l'argomento dei miei scritti futuri, era anch'essa una semplice illusione priva di consistenza e sarebbe cessata grazie all'intervento di mio padre, che certamente si era già accordato col governo e con la provvidenza perché io diventassi il più grande scrittore del secolo. Ma altre volte, mentre i miei si spazientivano nel vedere che restavo indietro e non li seguivo, la mia vita attuale, invece di sembrarmi una creazione artificiale di mio padre e che lui avrebbe potuto modificare a piacimento, mi appariva al contrario parte di una realtà che non era fatta per me, contro la quale non esisteva rimedio, in seno alla quale non avevo alleati, che non nascondeva nulla al di là di se stessa. Mi sembrava in quei momenti di esistere nello stesso modo degli altri uomini, che sarei invecchiato come loro, che sarei morto come loro, e che in mezzo a loro ero semplicemente uno dei tanti che non hanno attitudine alla scrittura. Così, sconfortato, rinunciai per sempre alla letteratura, malgrado gli incoraggiamenti che mi erano venuti da Bloch. Il sentimento intimo, immediato, che nutrivo del nulla del mio pensiero, prevaleva su qualunque parola lusinghiera mi venisse prodigata, come i rimorsi di coscienza di un malvagio, di cui tutti vantino le buone azioni. Un giorno la mamma mi disse: «Tu che parli sempre di Madame de Guermantes, lo sai che verrà a Combray per il matrimonio della figlia del dottor Percepied, che l'ha curata così bene 4 anni fa? La potrai vedere alla cerimonia?» Del resto, era proprio dal dottor Percier che il più delle volte avevo sentito parlare di Madame de Guermantes, e ci aveva anche mostrato il numero di una rivista illustrata in cui lei appariva nel costume che aveva indossato a un ballo mascherato dalla principessa de Léon. A un certo punto, durante la messa nuziale, un movimento che fece lo scaccino nei suoi spostamenti mi permise di vedere, seduta in una cappella, una dama bionda con un gran naso, gli occhi azzurri e penetranti, una vaporosa cravatta a sbuffo di seta color malva, liscia, nuova e lucida, e un brufoletto sul naso. E poiché sulla superficie del suo viso arrossato, come fosse molto accaldata, io distinguevo, diluite, appena percettibili, alcune frammentarie analogie col ritratto che me ne avevano mostrato, soprattutto perché i tratti particolari che osservavo in lei, se tentavo di enunciarli, si formulavano esattamente negli stessi termini, un gran naso, occhi azzurri, di cui si era servito il dottor Percier quando aveva descritto in mia presenza la duchessa di Guermantes, mi dissi: «Questa dama somiglia a Madame de Guermantes». Ora, la cappella da cui seguiva la messa era quella di Gilbert Le Mauvais, sotto le cui tombe levigate, dorate e distese come alveoli di miele, riposavano gli antichi conti di Brabant, e ricordavo, a quanto mi avevano detto, che era riservata alla famiglia dei Guermantes quando qualcuno dei suoi membri veniva a Combray per qualche cerimonia. Verosimilmente in quella cappella, in quel giorno, il giorno in cui per l'appunto lei doveva venire, non poteva esserci che una sola donna che somigliasse al ritratto di Madame de Guermantes. Era lei. La mia delusione era grande. Ogni volta che pensavo a Madame de Guermantes, non mi ero mai reso conto che me la rappresentavo coi colori di un arazzo o di una vetrata, in un altro secolo, di materia diversa dalle altre creature viventi. Mai aveva immaginato che potesse avere il viso arrossato, una cravatta color malva come Madame Sazerat, e l'ovale delle sue gote mi richiamò talmente il ricordo di tante altre persone viste in casa mia, che affiorò in me il sospetto, d'altronde subito dissipato, che quella dama, nel suo principio generatore, in ogni sua molecola, non fosse in sostanza la duchessa di Guermantes, ma che il suo corpo, ignaro del nome che gli veniva applicato, appartenesse a un certo tipo femminile che comprendeva anche mogli di medici e di commercianti. «È questa, non è altro che questa, Madame de Guermantes», diceva l'espressione attenta e stupita con cui contemplavo quell'immagine, che naturalmente non aveva alcun rapporto con le altre che tante volte erano apparse nei miei sogni sotto lo stesso nome di Madame de Guermantes, perché lei non ero stato io a crearla arbitrariamente come le altre, ma m'era balzata davanti agli occhi solo un attimo prima nella chiesa, e non era della stessa natura. Non la si poteva colorare a volontà come quelle che si lasciavano impregnare della tinta arancione di una sillaba, ma era così reale che tutto, perfino il brufoletto infiammato sul naso, attestava la sua soggezione alle leggi della vita, come in un'apoteosi teatrale una piega nel vestito della fata, un tremito del suo dito mignolo, denunciano la presenza materiale di un'attrice viva in carne ed ossa, là dove noi eravamo incerti se non avessimo davanti agli occhi una semplice proiezione luminosa. Ma nello stesso tempo, a quell'immagine che il naso prominente, gli occhi penetranti fissavano nella mia visione, forse perché erano stati i primi a raggiungerla, a intaccarla, quando non avevo ancora avuto il tempo di pensare che la donna che era apparsa davanti a me desse essere Madame de Guermantes, a quell'immagine ancora così nuova, immutabile, cercavo di far aderire l'idea «è Madame de Guermantes», riuscendo soltanto a farla muovere davanti all'immagine come due dischi separati da un intercapedine. Ma quella Madame de Guermantes, della quale avevo così spesso sognato, ora che la vedevo esistere effettivamente al di fuori di me, acquistò ancora più potere sulla mia immaginazione, che, paralizzata per un attimo, a contatto con una realtà così diversa da quella che si aspettava, cominciò a reagire e a dirmi: «Gloriosi fin da prima di Carlo Magno, i Guermantes avevano diritto di vita e di morte sui loro vassalli. La duchessa di Guermantes discende da Geneviève de Brabant, non conosce né acconsentirebbe a conoscere alcuna delle persone qui presenti». e, oh, meravigliosa indipendenza degli sguardi umani, trattenuti al volto da una corda così lenta, così lunga, così estensibile, da poter andarsene a spasso da soli, lontano da quello. Mentre Madame de Guermantes sedeva nella cappella sopra le tombe dei suoi morti, i suoi sguardi vagavano pigri qua e là, salivano lungo le colonne, indugiavano anche su di me come un raggio di sole errante lungo la navata, ma un raggio di sole che nel momento in cui ne ricevetti la carezza mi parve consapevole. Quanto a Madame de Guermantes, poiché restava immobile, seduta come una madre che sembri non accorgersi delle birichinate e delle impertinenze dei suoi bimbi che giocano e interpellano persone a lei sconosciute, non mi fu possibile sapere se approvasse o biasimasse, nell'inerzia dell'animo, il vagabondare dei suoi sguardi. Era importante per me che non se ne andasse prima che avessi potuto guardarla a sufficienza, perché ricordavo che da anni consideravo estremamente desiderabile poterla vedere e non staccavo gli occhi da lei come se ogni mio sguardo avesse potuto materialmente prelevare e tenere in serbo dentro di me il ricordo del suo naso preminente, delle sue gote rosse, di tutti quei particolari che mi sembravano altrettante informazioni preziose, autentiche e singolari sul suo volto. Ora che me lo facevano trovare bello, tutti i pensieri che io vi collegavo, e forse soprattutto forma dell'istinto di conservazione delle parti migliori di noi stessi, quel desiderio che abbiamo sempre di non essere stati delusi, ponendola di nuovo, poiché lei e quella duchessa di Guermantes che avevo fino ad allora evocato erano una sola persona, al di fuori del resto dell'umanità, con la quale la vista pure semplice del suo corpo me l'aveva fatta per un istante confondere, mi irritava sentir dire intorno a me «è meglio di Madame Sazerat e di Mademoiselle Vinteuil», e come se fosse possibile paragonarla a loro. E mentre indugiavo con lo sguardo sui suoi capelli biondi, sui suoi occhi azzurri, sull'attaccatura del collo, e trascuravo i tratti che avrebbero potuto ricordarmi altri volti, esclamavo davanti a quell'abbozzo volontariamente incompleto: «Com'è bella, che nobiltà! Ha proprio la fierezza dei Guermantes, la discendente di Geneviève de Brabant che ho davanti a me!» E l'attenzione con cui scrutavo il suo volto la isolava talmente che ancora oggi, se ripenso a quella cerimonia, mi è impossibile rivedere una sola delle persone che vi assistevano, tranne lei e lo scaccino che mi rispose affermativamente quando gli chiesi se quella dama fosse proprio Madame de Guermantes. Ma lei sì, la rivedo soprattutto al momento del corteo nella sacristia, rischiarata dal sole intermittente caldo di un giorno ventoso e di burrasca, e dove Madame de Guermantes era venuta a trovarsi in mezzo a tutte quelle persone di Combray di cui non sapeva nemmeno il nome, ma la cui inferiorità proclamava con troppa evidenza la sua supremazia perché lei non provasse per loro una sincera benevolenza e sulle quali del resto sperava di imporsi ancor più per la sua buona grazia e la sua semplicità. Così, non potendo lanciare quegli sguardi volontari, carichi di un preciso significato, che si rivolgono a qualcuno che si conosce, ma soltanto lasciar fluire incessantemente davanti a sé i propri distratti pensieri in un flusso incontenibile di luce azzurra, temeva che il suo sguardo potesse generare disagio o apparire disprezzo per quella gente modesta che incontrava ad ogni istante al suo passaggio. Rivedo ancora, al di sopra della sua cravatta color malva, serica e rigonfia, il dolce stupore dei suoi occhi, al quale aveva aggiunto, senza osare destinarlo ad alcuno, ma perché ciascuno potesse prenderne la sua parte, un sorriso un po' timido da signora feudale che ha l'aria di scusarsi coi suoi vassalli e di amarli. Quel sorriso cadde su di me, che non l'avevo mai abbandonato un istante con gli occhi. Allora, ricordando lo sguardo che aveva lasciato indugiare su di me durante la messa, azzurro come un raggio di sole filtrato attraverso la vetrata di Gilbert Le Mauvais, mi dissi: «Ma non c'è dubbio, mi sta osservando». Credetti di piacerle, che avrebbe pensato a me anche dopo aver lasciato la chiesa, che per causa mia forse si sarebbe sentita triste la sera a Guermantes, e subito l'amai, Perché se a volte, per innamorarsi di una donna, basta che lei ci guardi con disprezzo, come mi era parso avesse fatto Mademoiselle Swann, per pensare che non potrà mai appartenerci, a volte può anche bastare che ci guardi con bontà, come fece Madame de Guermantes, per pensare che ci potrà appartenere. I suoi occhi rilucevano d'azzurro come una pervenca impossibile da cogliere, e che tuttavia lei mi avesse dedicata. E il sole, minacciato da una nuvola, ma dardeggiando ancora con tutta la sua forza sulla piazza e nella sacrestia, conferiva un incarnato di geranio ai tappeti rossi che erano stati distesi per terra in occasione di quella solennità, e sui quali Madame de Guermantes incedeva sorridendo, e aggiungeva al loro vellutato una morbidezza rosa, un'epidermide di luce, quella sorta di tenerezza, di dolcezza severa nella pompa e nella gioia che caratterizzano certe pagine del Lohengrin, certi dipinti di Carpaccio, e che spiegano come Baudelaire abbia potuto applicare al suono della tromba l'epiteto delicieux.